Europa 24. Saluto da Gigi Donelli. Allora, qualche notizia dall'Europa. La prima ci porta nel mondo della tecnologia. La rete di ricerca paneuropea superveloce Géant, infatti, ha annunciato che in virtù di un potenziamento dell'infrastruttura è ora in grado di raggiungere una velocità fino a 2 Tbps, cioè terabit al secondo. È già disponibile in tutta la rete centrale una capacità fino a 500 Gbps, il che significa, fa sapere in una nota della Commissione europea, che in 32.000 università, istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, archivi nazionali e musei e ospedali, i singoli utenti potranno trasferire dati a una velocità fino a 100 gigabit per secondo. Il Fondo Salva Stati FSF ha versato la tranche di aiuti alla Grecia di 2,5 miliardi di euro. L'ha indicato in un comunicato, appunto, le FSF, precisando che il prestito scadrà nel 2048. Dopo l'avvio dell'attuazione di 22 azioni prioritarie, il Consiglio di amministrazione delle FSF ha deciso che i 2,5 miliardi potevano essere sbloccati, così il direttore generale Klaus Regling. Quanto guadagnano davvero i parlamentari europei? Il portavoce del Parlamento, Jean Duch, ha risposto a un articolo di Repubblica di qualche giorno fa sui guadagni degli europarlamentari. Dal 2009, spiega in una nota, il Parlamento europeo si è dotato di uno statuto unico per i suoi membri, che predispone un salario mensile di 7.956 euro lordi. La retribuzione, che proviene dal bilancio del Parlamento ed è soggetta a tassazione europea e a un contributo assicurativo, ammonta infine a 6.200 euro netti. E ora sentiamo le segnalazioni, l'ultima segnalazione di settimana del nostro Federico Taddia. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo l'Agora dei cittadini sulla disoccupazione giovanile, organizzata a Bruxelles dal 6 all'8 novembre 2013. L'obiettivo del Parlamento europeo è quello di raccogliere giovani da tutta Europa per discutere sulle attuali sfide del mercato del lavoro all'interno dell'Unione. Per 3 giorni i partecipanti saranno quindi invitati a condividere le proprie esperienze al fine di elaborare raccomandazioni per i politici europei su questo tema di grande attualità. I partecipanti, 2 per ogni Stato membro, uno occupato e l'altro disoccupato, dovranno avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni e l'iscrizione va fatta entro il 31 agosto. Tutte le spese di trasporto e di alloggio saranno a carico del Parlamento europeo. Le informazioni e il modulo per la candidatura si trovano sul sito www.europarl.eu. E come sempre, naturalmente, su radio24.it. Con questo è tutto per questa settimana. Da Gigi Donelli, da Gianmarco Fernato in regia, un saluto, l'appuntamento per lunedì intorno alle 13.10. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.